Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Nulla è stato più paradossale e iniquo che vedere anche Loris divenire vittima di quello che il professor Fiandaca ha chiamato un perverso gioco politico, giudiziario e mediatico, la cui impronta mistificatoria si è fatta risentire proprio oggi, forse in non casuale coincidenza con questo incontro. Trattativa Stato-mafia, la Corte d'Assise di Palermo ammette la deposizione di Giorgio Napolitano. Il capo dello Stato sarà sentito sui colloqui tra Mancino e l'ex consigliere giuridico del Quirinale D'Ambrosio. La voce che avete sentito di Napolitano si riferisce proprio alla commemorazione di qualche giorno fa per la morte di D'Ambrosio. La capitale si prepara a due giorni blindati. Domani il corteo dei Cobas con annesso sciopero dei trasporti. La sera Roma-Napoli, poi sabato la manifestazione Notav. Tra poco intervista al vice ministro all'interno. Manovra, se non si taglia la spesa saliranno le accise, retroattivo il taglio delle agevolazioni fiscali, dubbi e critiche dai falchi del PDL e dai renziani del PD. Ancora il caso Pripke, la salma non si sa dove sia, è stata sequestrata, ce l'hanno i servizi segreti, dice l'avvocato del boia delle fosse ardeatine. Accordo raggiunto e approvato negli Stati Uniti sull'innalzamento del tetto del debito, 24 miliardi di dollari persi dall'inizio dello shutdown. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione, benvenuti a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Se volete commentare potete scrivere come sempre via SMS oppure mi scrivete su Twitter Simone Spezia. In apertura dunque le notizie che arrivano da Palermo, dove, come avete sentito dai titoli, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano sarà chiamato a testimoniare. Sentiamo. Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano potrà essere sentito come testimone nell'ambito del processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia, ma entro limiti ben precisi. Lo ha stabilito la Corte d'Assise di Palermo, presieduta da Alfredo Montalto, che ha accolto in parte le richieste avanzate dalla Procura di Palermo. I giudici hanno precisato che potranno essere fatte al Capo dello Stato domande nei soli limiti della conoscenza del test che potrebbero esulare dalle funzioni presidenziali e dalla riservatezza del ruolo. E in particolare per approfondire le preoccupazioni espresse dal consigliere giuridico del Quirinale, Loris D'Ambrosio, morto d'infarto a luglio dell'anno scorso. Ammesse anche le trascrizioni dei colloqui telefonici tra l'ex ministro degli interni Nicola Mancino, imputato nel processo, e D'Ambrosio. Nella lista dei 177 testimoni anche il presidente del Senato ed ex procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso e il procuratore generale della Corte di Cassazione Gianfranco Ciani. La prossima udienza è stata fissata per il 24 ottobre. Nino Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Palermo. E veniamo alla manovra adesso, che continua a generare tensioni politiche. Non convince le parti sociali, ma col passare delle ore anche nella stessa maggioranza sono sempre di più le richieste di un miglioramento della legge di stabilità nel corso del suo iter parlamentare. Il premier Letta ed il ministro dell'economia Saccomanni non lo escludono. Nel Popolo delle Libertà la manovra nel frattempo è diventato il nuovo terreno di scontro fra governativi e lealisti. I primi, guidati da Alfano, la difendono, dai secondi arrivano invece giudizi sempre più critici. A chiedere interventi sul testo è anche il Partito Democratico, secondo il quale la legge di stabilità va comunque nella direzione giusta. Uno dei principali nodi resta quello delle risorse destinate al taglio del cuneo fiscale, che a conti fatti per i lavoratori porterebbe ad un aumento in busta paga di 14 euro al mese, nel migliore dei casi. Troppo poco, secondo sindacati e imprese. Spero che le Camere cambino un po' la manovra, perché così com'è non è in grado di far ripartire il paese, ripete il presidente di Confindustria Squinzi. Dal fronte sindacale invece oggi anche il leader della FIOM Landini non esclude l'ipotesi di uno sciopero generale contro la legge di stabilità. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Il punto di Stefano Folli. Le polemiche violente sulla legge di stabilità, molte erano prevedibili, alcune sono figlie dei punti deboli del provvedimento. Ma quanto peso ha la frattura all'interno del partito berlusconiano negli sferzanti giudizi provenienti dall'ala del PDL più vicina all'ex premier? I fedeli di Berlusconi, a cominciare da Fitto, impegnati in una strenua battaglia contro il traditore Alfano, si muovono e agiscono ormai quasi come un partito di opposizione. Invece sono ancora, non sappiamo per quanto tempo, un solo partito e sono al governo insieme. Ecco, il vero rischio è che la finanziaria sia stravolta in Parlamento come conseguenza diretta delle lotte interne ai partiti. abbiamo detto del PDL, ma il PD alla vigilia di scelte difficili potrebbe non essere da meno. È una legge di stabilità stravolta e molto peggio di una mediocre legge di stabilità. E più avanti nel corso della trasmissione, a proposito del Partito Democratico, ospiteremo anche un deputato del PD, un economista molto critico sulla legge di stabilità, ma oggi siamo critici anche noi. Gianni Trovati, buongiorno, del Sole 24 Ore. Buongiorno a voi. Sole 24 Ore che dedica anche oggi 16 pagine esclusivamente alla legge di stabilità, un mega speciale che non vi potete perdere, non voglio immaginare cosa ci aspetti per i prossimi giorni. Però Gianni, restiamo ad oggi. Il tema, ancora una volta, la violazione dello statuto del contribuente, ossia le agevolazioni fiscali sono a valere, il taglio alle agevolazioni fiscali è a valere sul 2013, cioè su quest'anno. Esatto, ricordiamoci che tutto questo fa parte di una serie ormai molto complicata e quasi ingestibile di clausole di salvaguardia incrociate, per cui se non succede una cosa ne succede un'altra. Comunque sia, una di queste clausole è legata al fatto che o si tagliano in maniera selettiva alcune voci delle detrazioni fiscali, ricordiamoci quelle più importanti sono quelle per le spese sanitarie, per gli interessi sui mutui della casa, poi ce ne sono alcune più settoriali, o si taglia, diciamo, molto una singola voce o poche voci di queste detrazioni, oppure si taglia tutto al 18% a valere sul 2013 e al 17% a valere sul 2014. Tra l'altro è una retroattività ancora più estesa, perché appunto non è deciso, diciamo, di solito si viola o si legifera in deroga allo statuto del contribuente arrivando a fine anno e dicendo ai contribuenti: sapete cosa c'è? Che le regole dall'inizio dell'anno, quindi da 11 mesi fa, sono cambiate. Qui si fa ancora peggio, perché si dice ai contribuenti: sapete cosa c'è? È probabile che noi l'anno prossimo cambieremo le regole per l'anno precedente. Allora a questo punto dico, forse è meglio abolire lo statuto del contribuente, risparmieremo in inchiostro di quelle righe che ci sono in tutte le manovre, cioè in deroga allo statuto del contribuente. Allora grazie Gianni Trovati per questo commento. Intanto, se vogliamo far imbestialire i cittadini di Roma, è appena stata battuta una notizia che riguarda sempre la bozza del DL collegato alla legge di stabilità. Ebbene, il Comune di Roma potrà aumentare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF, attualmente fissata allo 0,9%, di ulteriori 0,3 punti percentuali per fronteggiare la situazione di squilibrio finanziario del Comune. E se conosciamo i nostri sindaci, a quel 1,2% a questo punto di addizionale IRPEF ci arriveremo molto presto. Restiamo sull'economia, ma andiamo negli Stati Uniti. Nella mattinata americana il presidente del Consiglio Letta incontrerà Obama. Ieri il premier italiano è volato a Washington, ha rilasciato un'intervista alla TV pubblica PBS e si dice fiducioso che l'Italia sia ormai sulla strada della stabilità politica ed economica. Siamo fuori dall'emergenza. Obama accoglie Letta in un giorno di soddisfazione vista l'approvazione dell'accordo per evitare il fallimento. Dunque la Camera ha dato il suo definitivo via libera all'intesa già approvata al Senato, con cui si riapre lo Stato federale sino al 15 gennaio e si innalza il tetto del debito sino al 7. Tonight, Republicans and Democrats in Congress have come together around an agreement that will reopen our. Sino al 7 febbraio. Il presidente ha ringraziato i leader del Senato per essere arrivati all'intesa. Non c'è motivo per continuare con questo clima di scontro. Sono pronto a lavorare con chiunque. Naturalmente approfondiremo tra poco, come sempre, con Mario Platero in America 24. Ancora il caso Pripke in primo piano. Secondo l'avvocato, la salma sarebbe addirittura nelle mani dei servizi segreti. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno. Dove si trova la salma di Eric Pripke? Questo l'interrogativo di quest'ora, al quale per ora non sembra esserci risposta. Potrebbe trovarsi ancora nell'aeroporto militare di Pratiche di Mare, dove era stata portata dopo gli scontri di Albano, forse trasferita in una località segreta. Dunque si tinge sempre più di giallo la vicenda dell'ex capitano dell'SS morto 6 giorni fa. L'avvocato Paolo Gechin e quella famiglia Pripke ha rinnovato il mandato, sostiene che la salma sia stata sequestrata, trafugata dal monastero di Albano e ora sarebbe in mano ai servizi segreti. Anzi, Gechini fornisce altri particolari. Nella notte tra il 15 e il 16 dice circa 30 persone si sono introdotte nel monastero di Albano, hanno picchiato le 4 persone che stavano vegliando la salma, l'hanno portata via. Da allora non ne sappiamo più nulla, ci rivolgeremo alla procura. E intanto resta in piedi l'ipotesi cremazione, i parenti darebbero loro via libera solo dopo i funerali, funerali che però, sostiene oggi Don Pierpaolo Petrucci, superiore delle febbraie in Italia, sarebbero già stati celebrati. Dunque una vicenda molto complessa con tanti punti oscuri. Quel che è certo è che il governo insieme al prefetto di Roma intende arrivare al più presto ad una soluzione che potrebbe anche essere quella di imporre sulla vicenda il segreto di Stato. In questo caso la destinazione del feretro potrebbe restare ignota, un modo anche per far cessare l'eccessivo clamore su una vicenda che si trascina ormai da troppi giorni. A te, Simone. Grazie Alessandra Schepisi. Sarà l'autopsia a dare la certezza, ma i corpi di Vittorio Missoni e delle altre persone che viaggiavano con lui potrebbero essere stati recuperati in Venezuela. Avevano ancora la cintura allacciata. A 9 mesi dall'incidente, era il 4 gennaio del 2013, quando il loro aereo precipitò nel tragitto Los Roques-Caracas, sono stati ritrovati i corpi di Vittorio Missoni, della compagna Maurizia Castiglioni, dei loro amici Guido Foresti ed Elda Scalvensi e del copilota Juan Carlos Ferrer Milano. I resti sono stati estratti dal velivolo, localizzato a giugno a 70 metri di profondità, molto vicino alla superficie, nelle acque a nord dell'arcipelago venezuelano. Nessuna traccia per il momento del pilota Herman José Marchán. I sommozzatori lo stanno cercando. E oggi cominceranno anche le operazioni di recupero di ciò che resta del velivolo. L'obiettivo è quello di cercare di stabilire le cause dell'incidente, guasto meccanico o errore umano. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Giornata di passione quella di domani, come si dice, soprattutto per i trasporti in realtà, anche se lo sciopero è generale inteso non di tutti i sindacati, ma solamente dei sindacati autonomi. I dipendenti delle Ferrovie dello Stato aderenti a questi sindacati sciopereranno per 24 ore, dalle 21 di questa sera alle 21 di venerdì. Poi autobus, tram e metro a Roma, servizio sospeso dalle 8.30 alle 17, dalle 20 alla fine servizio, anche se qua forse c'è qualche modifica per Roma-Napoli, adesso chiariremo. Milano, bus, tram e metro fermi dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio. Napoli dalle 8.30 alle 17, dalle 20 a fine servizio. E poi ci sono scioperi anche nel settore aereo. Piero Bernocchi, portavoce nazionale Cobas, buongiorno. Buongiorno a voi. Innanzitutto un'informazione pratica, mi conferma che su Roma è stato trovato un accordo diverso, no? Soprattutto per Roma-Napoli, o mi sbaglio io? Sì, soprattutto per Roma-Napoli. Spero che i tifosi delle due squadre, tra cui ci sto anch'io, della Roma per la precisione, ci ringrazino, perché dopo aver accettato che la partita si svolgesse contemporaneamente al nostro concerto e alle nostre iniziative della sera, abbiamo revocato lo sciopero in modo che i tifosi, comunque anche gli altri cittadini, possano utilizzare i mezzi. Ovviamente la cosa ci costa, perché interrompere lo sciopero a metà significa che chi fa il turno completo non è entusiasta di lavorare 4 ore e scioperare 4 ore. Comunque abbiamo fatto così. Senta, perché scioperate, Bernocchi? Ma mi pare che la finanziaria ci confermi che, al di là delle baruffe tra PD e PDL, all'interno del PDL esiste in realtà in Italia un perseverante, in maniera distruttiva, partito trasversale dell'austerità, che nonostante tutti i dati dimostrino che questi 5 anni di austerità sono stati catastrofici per il Paese, prosegue. Noi abbiamo dati sconvolgenti: dovevamo ridurre il debito pubblico, 5 anni fa era al 118% rispetto al PIL, adesso 135%, c'avevamo la disoccupazione all'8%, ce l'abbiamo al 12%, si sono distrutti circa il 25% dell'apparato produttivo del paese, e pur tuttavia uno va a guardare la finanziaria, che viene fatta passare per una finanziaria light, addirittura che restituisce qualcosa ai lavoratori, e ci si rende conto che si prosegue sulla stessa strada. In realtà quindi sentiamo, abbiamo sentito in queste ore molte critiche da destra, come sentite le critiche arrivano anche da sinistra. Bernocchi, mi dica una cosa, perché ce lo chiedono molti ascoltatori, e so che la prenderete come una cattiveria, ma dicono: ma perché scioperi sempre di venerdì? Beh, il venerdì è il giorno preferibile per Perché si aggancia al fine settimana, ma perché devono venire a fare la manifestazione nazionale. Se facessimo delle manifestazioni locali ogni giorno sarebbe uguale. In più questa volta però c'è una circostanza particolare, abbiamo accettato questa specie di staffetta in cui oggi, appunto, domani, venerdì manifesteremo e sciopereremo, però il giorno dopo i movimenti per l'abitare, i movimenti che difendono il diritto alla casa e varie altre strutture manifestano, e noi abbiamo stabilito una sinergia per cui loro la manifestazione la fanno di sabato, noi la facciamo di venerdì. Però in generale il motivo principale è questo: noi associamo sempre gli scioperi generali con le manifestazioni nazionali, il che richiede il rientro successivo, e quindi il venerdì è il giornale, La giornata preferibile. Va bene, Bernocchi, grazie, buona giornata. Un buon lavoro. Noi ci fermiamo, c'è la viabilità, ci ritroviamo subito dopo. Parleremo di una questione che secondo me è molto importante, riguarda quelli che in parte vengono dimenticati in queste ore. Parliamo tanto di immigrazione, parliamo tanto di rifugiati, non ragioniamo abbastanza sul fatto che tra questi rifugiati, tra questi, chiamiamoli immigrati se volete, ci sono tantissimi bambini che rimangono abbandonati. E poi anche di questo, oltre che della situazione a Roma, nelle prossime ore parleremo col Vice Ministro all'Interno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Ancora la manovra in primo piano, se non si taglia la spesa saliranno le accise, retroattivo il taglio delle agevolazioni fiscali. Il Comune di Roma potrà alzare l'addizionale IRPEF di un altro 0,3%. La trattativa tra Stato e mafia, la Corte d'Assise di Palermo ammette la deposizione di Giorgio Napolitano. Il capo dello Stato sarà sentito sui colloqui tra Mancino e l'ex consigliere giuridico del Quirinale D'Ambrosio. La capitale si prepara a 2 giorni blindati, domani il corteo dei Cobas con annesso sciopero dei trasporti, la sera Roma-Napoli, poi sabato la manifestazione No TAV. Non si sa dove sia la salma di Erik Priebke, è stata sequestrata, ce l'hanno i servizi segreti, dice l'avvocato del boia del Fosse Ardeatine. Accordo raggiunto e approvato negli Stati Uniti sull'innalzamento del tetto del debito, 24 miliardi di dollari persi dall'inizio dello shutdown. E noi apriamo questa seconda parte però parlando prima che di... Prima di incontrare il Vice Ministro all'Interno Filippo Bubbico e fargli anche delle domande tanto sulla vicenda Priebke, soprattutto su come è stata gestita, quanto sui giorni che aspettano Roma, sulle giornate che aspettano Roma, parliamo di minori. Sono più di 3.300 quelli arrivati nel 2013 a Lampedusa, molti di loro sono non accompagnati dai genitori o orfani e diventano presto dei fantasmi. Sentiamo. Strano paese l'Italia, dove esiste una banca dati dei cani abbandonati, ma non una dei minori abbandonati. In realtà è stata istituita faticosamente dopo 11 anni di attesa a febbraio dal Ministero di Giustizia, ma poiché su 29 tribunali dei minori regionali solo 8 hanno reso disponibili i dati, è come se non ci fosse. E quindi accade che se a Lampedusa c'è un bambino solo o orfano e a Bolzano, poniamo, una famiglia che vuole adottarlo o averlo in affidamento, questo non accade. Non abbiamo citato Lampedusa a caso. Nel 2011, infatti, sono più di 3.300 i minori arrivati sull'isola. Moltissimi sono i non accompagnati, un'emergenza nell'emergenza, dice il portavoce UNICEF Andrea Iacomini. Questi bambini, non dimentichiamo, di notte, disperati, arrivano con le proprie famiglie o anche da soli, vengono fatti sedere, ho visto a Siracusa, su delle scalinate dove vengono vestiti, vengono accolti, però poi insomma entrano in strutture qualche volta, dobbiamo dirlo, non in ottime condizioni. Ecco, questo deve essere una prerogativa del nostro paese. In una casa famiglia di Piana degli Albanesi, 25 piccoli sbarcati a Lampedusa aspettano ancora la nomina di un tutore, senza il quale è come se non esistessero. A Caltagirone, invece, 9 ragazzini eritrei sono scomparsi da un centro Caritas proprio ieri, come se fossero fantasmi. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Filippo Bubbico, Vice Ministro all'Interno, buongiorno. Sì, buongiorno. Speriamo che regga la linea, so che è in macchina. Speriamo. Ha sentito il servizio della nostra Valentina Furlanetto. Che cosa ci dice? È una situazione veramente paradossale, cioè il fatto di avere la lista dei cani abbandonati e non avere una lista dei minori non accompagnati. Beh, la lista dei minori non accompagnati c'è, i tribunali dei minori se ne occupano, c'è obiettivamente un problema di coordinamento che oggi emerge in tutta la sua rilevanza, perché dei minori le competenze sono frammentate. Da questo dato bisogna partire, perché la titolarità della tutela e del Tribunale dei minori, l'accoglienza la devono garantire i comuni, le regioni devono individuare le strutture e valutare la loro adeguatezza rispetto agli standard di qualità, agli standard funzionali. E quindi il Ministero del Lavoro coordina queste iniziative, il Ministero della Giustizia se ne occupa. Di fronte è un delirio, Bubico, mi scusi, è un delirio. Sì, esattamente così. L'emergenza che stiamo vivendo e la drammaticità delle situazioni che vengono osservate, raccontate, il dolore di questi bambini, per i quali, bisogna dirlo, in questo scenario di frammentazione delle competenze, il lavoro per individuare i genitori quando sono ancora vivi, il lavoro per individuare i parenti è intenso e viene coordinato dal Ministero degli Esteri. Dicevo, questo lavoro oggi viene fatto, ma la situazione di emergenza che abbiamo di fronte richiede una riorganizzazione del sistema, perché esista un unico centro di responsabilità, di coordinamento, perché tra le situazioni drammatiche che abbiamo di fronte, quella dei minori è sicuramente la più rilevante, ma grazie al cielo possiamo contare sull'aiuto delle organizzazioni internazionali che presidiano tutte le attività, e da loro vengono suggerimenti e aiuti. Suggerimenti e aiuti. Mi faccia passare ad altri temi, Vice Ministro. Innanzitutto, queste giornate che aspettano Roma, piuttosto complicate, direi. Allora, domani è la manifestazione dei Cobas con annesso sciopero dei trasporti. La sera c'è Roma-Napoli con tutti i rischi per la sicurezza che conosciamo. Sabato la manifestazione Nottav. Riferiva qualcuno che stamattina già i vigili urbani stanno girando mettendo dei foglietti zona San Giovanni sulle macchine, dicendo il 19 vedete questa macchina, di spostarla da qua, come dire il rischio di violenze è forte. Temete violenze per la giornata di sabato, per la serata di venerdì? No, io penso che vada apprezzata molto l'iniziativa della città di Roma, di Roma Capitale, questa attività di informazione, perché la città di Roma e gli organi dello Stato devono garantire il corretto svolgimento delle manifestazioni, perché il diritto a manifestare non venga mai leso, non venga mai limitato. Ma lei teme che ci siano violenze in queste giornate, tra venerdì sera e domani e sabato, scusi? Diciamo, questi sono fatti che possono verificarsi sempre. La storia delle manifestazioni ci racconta di infiltrazioni, di provocatori, ma gli stessi organizzatori hanno un identico interesse, che è quello che coltiviamo noi come Repubblica, che è appunto quello di garantire la sicurezza e la tranquillità di chi manifesta, ma anche la sicurezza e la tranquillità dei cittadini che vivono a Roma, che è il punto di riferimento di tutte le iniziative, di tutte le manifestazioni. Quindi non teme una replica di quello che è successo nel 2011? Io mi auguro tanto che non accada. Il lavoro che gli organi dello Stato stanno producendo va esattamente in questa direzione, ma ripeto, per garantire e rendere praticabile il diritto di manifestazione, il diritto di sciopero nella sicurezza di tutti. Un'altra domanda sulla gestione del caso Priebke. La prima domanda è di stretta cronaca, perché dice l'avvocato che la salma di Priebke è nelle mani dei servizi segreti. No, lei ne sa qualcosa? Ma guardi, se fosse nelle mani dei servizi segreti non dovremmo saperlo, se no che servizi segreti sarebbero. Invece la questione credo sia più lunga. Però così non mi ha risposto. Perché non lo so se i servizi segreti rispondono. Ma lo ritiene possibile? La ritiene una cosa possibile? Io ritengo possibile che da parte delle autorità competenti siano state adottate misure tese a garantire da una parte il diritto per una sepoltura che va riservata ad un essere umano, quali che siano le proprie storie, le proprie vicende, le proprie responsabilità, e qui sarebbe lungo parlarne, e soprattutto in queste giornate quando è vivo il ricordo di una tragedia che mai più deve verificarsi nell'umanità. Senta, e identifica in quello che è successo ad Albano Laziale l'altro giorno delle responsabilità del prefetto Pecoraro? Secondo lei ha sbagliato? Io trovo di no. Io trovo che il prefetto di Roma abbia agito con l'obiettivo di garantire da una parte le esequie di questo essere umano e dall'altra di garantire l'ordine pubblico, impedendo che un atto di pietà potesse diventare una occasione di scontro o di violenza da parte di gruppi che si richiamano ad ideologie che noi dobbiamo sconfiggere con la legge e con la cultura. Grazie Filippo Bubbico, Vice Ministro all'Interno, per essere stato con noi. Buona giornata. Buona giornata a voi. Elisabetta Fiorito da Montecitorio. Ciao, buongiorno. Sì, buongiorno. Ciao, allora, hanno approvato la legge. Buone notizie, insomma. Io spero di non diffamare nessuno, però dimmi quali sono queste notizie. Comunque, vai. Se tante volte tu dovessi diffamare qualcuno, noi speriamo di no, Simone, ovviamente non andrà in carcere, almeno questo è quanto prevede il disegno di legge approvato alla Camera che praticamente dice stop al carcere per i giornalisti, e è un primo sì. Il disegno di legge adesso passa al Senato. C'è da dire che poi il Movimento 5 Stelle ha anche chiesto di calendarizzare la proposta di legge che prevede l'abolizione dell'ordine dei giornalisti. Vedremo cosa succederà. Intanto abbiamo questa approvazione. Io, Elisabetta, ti ringrazio. Siamo un po' stretti con i tempi, perché visto che siamo in tema di carceri, c'è il nostro viaggio quotidiano realizzato dalla nostra Raffaella Calandra oggi da Poggio Reale. Quanti siete nella vostra cella? 9. Se la mattina per andare in bagno, cioè ci dobbiamo mettere in fila. Che cosa vuol dire quando fa caldo stare in 9? Prendere asciugamani, bagnarli, metterti addosso. Quando il cancello si chiude si riducono a 4, forse 5 i passi, e sembra diminuire pure l'aria che filtra tra le grate dell'unica finestra, anch'essa affollata di pannistesi e scorte di frutta. Carcere di Poggio Reale, reparto Napoli. In 9 abitano questa cella, incastrati come i loro letti a castello, sempre pronti ad aumentare nella prigione più affollata d'Italia, dove ora 2.656 detenuti vivono in uno spazio concepito per 1.503. Nei mesi scorsi erano 300 in più. Un affollamento che, insieme alla mancanza di almeno 200 agenti, dilata pure i tempi delle visite mediche e dei colloqui, oltre a quelli di accesso ai bagni. Proprio da qui il capo dello Stato ha aperto il dibattito sulla clemenza, e a Sergio, che ha ancora 7 anni da scontare, vengono i brividi. La pelle d'oca. Ogni minimo accenno all'amnistia o all'indulto ci fa sperare, poi si aspetta. La prima cosa che si impara qui in carcere è aspettare. Da un piano all'altro si diffonde la voce del carcere, fatta di sofferenza, ma anche della richiesta di recupero, soprattutto dai più giovani, che qui sono la maggioranza. Ma con questi numeri, è il cruccio della direttrice Teresa Abate, riusciamo a fare poco. Abbiamo fatto dei corsi per guide turistiche, come pure quello dell'arte presepiale, non basta rispetto alle richieste enormi che abbiamo. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Trattativa Stato-mafia, la Corte d'Assise di Palermo ammette la deposizione di Giorgio Napolitano. La capitale si prepara a 2 giorni blindati, domani il corteo dei Cobas, la sera Roma-Napoli, poi sabato la manifestazione Nottava. Manovra: se non si taglia la spesa saliranno le accise, il retroattivo e il taglio delle agevolazioni fiscali. Non si sa dove sia la salma di Pripke, è stata sequestrata, ce l'hanno i servizi segreti, dice l'avvocato. E saluto adesso Yoram Gutgeld, che è un deputato del Partito Democratico, molto vicino a Matteo Renzi, e ne ha scritto una parte del programma economico. Buongiorno Gutgeld. Buongiorno, buongiorno a tutti. Lei è molto critico con questa manovra. Ma io ho fatto, diciamo, un... lo direi così, sto cercando di incalzare in modo costruttivo il governo. Se vuole spiego il perché, quale il senso. Sì, sì, ci dica in cosa difetta prevalentemente questa manovra secondo lei. Allora inizio con i fatti positivi. I titoli di questa manovra sono buoni. Ridurre le tasse sul lavoro, in particolare le tasse che pagano i lavoratori, è una priorità assoluta. Alleggerire il patto di stabilità per i comuni è una cosa positiva, rimettere un componente patrimoniale nella tassazione sugli immobili è una cosa giusta e così via, quindi i titoli sono giusti. Quello che io non vedo in questa legge è una prospettiva di più lungo periodo di vere riforme, cioè in particolare vedo un po' una progressione sui 3 anni di questa legge che sono molto simili tra di loro, mentre invece io mi sarei aspettato, anzi auspico, che il governo faccia avvii delle riforme sul lato della spesa pubblica, sul lato del contrasto all'evasione, sulla revisione degli investimenti, sulla rimodulazione dello Stato sociale, in modo che nel 2015-2016 saremo in grado di avere molte risorse. Sì. Gutgeld, ci dica brevissimamente un emendamento che ha già in canna. Ma io più che emendamenti specifici, ripeto il concetto, a me interessa meno toccare i singoli aspetti di questa manovra. Io mi aspetto per esempio di avviare una revisione della spesa vera che permetta nel 2015 di avere una riduzione molto più importante di quella prevista ad oggi. Ecco. Delle tasse sul lavoro. Allora, grazie a Yoram Gutgeld, una delle voci critiche, come avete sentito, non con la violenza con la quale abbiamo sentito da altre parti, però abbastanza critica nei confronti della manovra. Grazie per essere stato con noi per questa breve intervista. Noi adesso parliamo delle indiscrezioni che sono circolate in merito al tentativo di Nestlé di acquisire Ferrero. La nostra Maria Luisa Pezzali. La Ferrero non ha ricevuto proposte di acquisto da parte di un altro gruppo del settore. È secca la smentita di Giovanni Ferrero, amministratore delegato del gruppo Dolciario di Alba, che ribadisce l'azienda non è in vendita a chi che sia. A pubblicare la notizia il quotidiano La Repubblica, secondo cui un'offerta per l'acquisizione sarebbe allo studio di Nestlé. La smentita di Ferrero segue quella di Banca IMI, la banca di investimento del gruppo Intesa San Paolo, indicata dalle indiscrezioni come banca per l'operazione. Chi conosce la famiglia e l'azienda, seppur alle prese con un delicato passaggio generazionale, Michele Ferrero ha compiuto 88 anni, dopo la morte del primogenito Pietro la guida del gruppo è affidata al solo Giovanni, non crede all'ipotesi di cessione. Lo storico del settore, Gigi Padovani. La famiglia non ha mai voluto né acquisire attraverso la borsa oppure attraverso il mercato altre aziende, il caso Cadbury lo ricorda, quando non hanno comprato questa azienda britannica, e in secondo luogo ha sempre rifiutato offerte di partnership o comunque la possibilità di vendita. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È arrivato il momento della staffetta. Allora, ad oggi Roberto Giachetti, deputato del Partito Democratico che sciopera in favore del cambiamento della legge elettorale, ha perso 4,5 kg a 11 giorni dall'inizio del suo digiuno. È partita una staffetta, gente comune, altri politici e la cosiddetta società civile che appunto ogni giorno prende un giorno e in quel giorno fa lo sciopero della fame in solidarietà a Giachetti per il cambiamento della legge elettorale. Chi abbiamo in linea oggi? Alessandro Gassman. Professione? Attore e regista. e perché ha deciso di aderire? Beh, intanto perché abbiamo una legge elettorale che si chiama Porcellum, questa la dice lunga sulla qualità di questa legge, se fosse stata bella l'avremmo chiamata in un altro modo, perché siamo in un momento, come conosciamo, sappiamo tutti, drammaticissimo nel paese, e questo paese ha bisogno di governabilità che questa legge elettorale non ci garantisce, e perché credo che sia il momento per gli italiani di un rinnovo abbastanza sostanzioso, molto sostanzioso, di una classe politica che mi sembra di poter dire non ha lavorato egregiamente, e credo che quindi dovremmo tornare a poter scegliere chi eleggere. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Manovra dubbi dai falchi del PDL e dai renziani. Se non si taglia la spesa saliranno le accise, retroattivo il taglio delle agevolazioni fiscali. In corso un vertice con Berlusconi e i ministri del governo Letta a Palazzo Grazioli. La capitale si prepara a due giorni blindati, domani sera Roma-Napoli, poi sabato la manifestazione No TAV. In arrivo a partire da questa sera uno sciopero di 24 ore dei trasporti proclamato dai Cobas. Trattativa Stato-mafia, la Corte d'Assise di Palermo sentirà Giorgio Napolitano, ammette la deposizione di Giorgio Napolitano. E adesso è il momento di America 24 e Mario Platero per parlare naturalmente dell'accordo sul tetto del debito. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24. Buongiorno Simone, grazie per la linea da Washington al seguito del presidente Enrico Letta. Mario Platero, beh, devo dire, ho trovato una capitale in grande spolvero, perché il tormentone sul bilancio, sul tetto del debito è finito, l'incubo non c'è più, c'è sicuramente un vincitore. Once this agreement arrives on my desk, I will sign it immediately. Il presidente ha parlato ieri sera, devo dire non ha infierito, anzi ha detto non ci sono vinti, non ci sono vincitori. A questo punto dobbiamo continuare a lavorare perché abbiamo nuove scadenze davanti a noi. In effetti le scadenze che sono state stabilite con l'accordo di ieri sono per il 15 di gennaio per il bilancio, per il 7 di febbraio per il rinnovo del tetto sul debito. Nel frattempo, l'atmosfera, come vi ho detto, è molto buona, perché riapriranno finalmente i battenti del governo americano fra un'ora e mezzo. Our country came to the brink of disaster. Harry Reid, presidente del Senato, è lui l'artefice di questo compromesso, è riuscito a costituire una forte maggioranza al Senato, pensate 81 voti favorevoli contro 18 contrari, dice siamo arrivati sull'orlo del disastro, ma lo abbiamo evitato. We fought a good fight, we did everything we could. To get them to the table and to negotiate. John Boehner, presidente della Camera, l'ho sconfitto. Beh, più che essere stato sconfitto lui, è stato sconfitto veramente il Tea Party, ma molto fair play, perché ammette la sconfitta in modo chiaro. Dice abbiamo combattuto la giusta battaglia, ma l'abbiamo persa. Non c'è ragione a questo punto per votare contro. E nella notte anche la Camera ha votato a favore di questo compromesso. Un errore, devo dire, madornale dei repubblicani, e un errore perché hanno aiutato Obama. Obama era in gravi difficoltà dopo la crisi siriana, a questo punto è risorto, ha molta credibilità politica, ha tenuto duro, non ha fatto concessioni, è stata una sconfitta davvero su tutta la linea. Resta da capire se questa batosta per i repubblicani così in qualche modo metterà in minoranza il Tea Party. Sono loro gli artefici di questa sconfitta, dietro di loro c'è il volto di un giovane 31enne, Michael Needham, che è il capo di Heritage Action. E un partito fuori dai partiti, un partito ombra, cosa che non appartiene alla tradizione degli Stati Uniti, ebbene è stato questo signore, questo 31enne, che ha guidato la rivolta. È importante adesso tornare all'equilibrio del bipartitismo. Ieri c'è stato un voto bipartisan, speriamo che prometta bene. Now, of course, the American leadership is needed to continue on the path for growth, because we are out of the austerity. Enrico Letta, il presidente del Consiglio a Washington, ottimo inglese, un'intervista ieri sera alla PBS, ha dato delle anticipazioni di quel che discuterà con il presidente Barack Obama, una visita importante qui a Washington, è la prima volta che Letta va in visita alla Casa Bianca, all'ufficio ovale. Tema dominante l'economia e soprattutto tema dominante lo shutdown, perché è stata quella la prima domanda che ha avuto Letta. Dice sì, io in qualche modo sono felice che questa situazione sia risolta perché abbiamo bisogno della leadership americana per la crescita. Ma capisce la situazione politica? Gli chiedono. Sì, la capisce, dice, perché anch'io a casa ho la stessa situazione. Ci troviamo sempre tutti contro tutti e la democrazia è fatta anche di confronti di questo genere. L'importante è che alla fine si risolvano. Jobs is the true problem of Europe and first of all jobs for youth. Due altre tematiche importanti, Letta sull'economia. Pensiamo ai giovani, pensiamo alla crescita. Il governo ha presentato una proposta di legge finanziaria molto importante. Si riducono le spese, si riducono le tasse, si pensa alla crescita, si pensa al rilancio dell'occupazione giovanile. Ecco, c'è una coincidenza molto importante in questa venuta a Washington di Letta. L'America chiude il suo problema economico, il suo rischio di crisi finanziaria. L'Italia arriva con un pacchetto già presentato che dovrà passare al vaglio della Commissione europea, ma di fatto ci si muove lungo il sentiero della crescita. L'Italia ha detto per la prima volta in molti anni non è più in uno stato di emergenza. Preoccupazioni per il populismo in Europa, dice, è un problema serio, dice Letta, ci sono le elezioni del Parlamento europeo nel 2014, il rischio che abbiamo è quello di avere il maggior numero di parlamentari anti-europei della nostra storia. Hi, pleasure, how are you? So nice to see you, Corey. Are you kidding? I want to put a mic right here. Oh, help me cool down. Non so se qualcuno ricorda questa piccola registrazione, Cory Booker, il sindaco di Newark, correva per la poltrona del Senato del New Jersey, vi avevo fatto ascoltare un fundraising visto dal di dentro a New York, una raccolta di fondi per le elezioni proprio di Cory Booker, un astro nascente della politica americana e un afroamericano molto simile a Barack Obama, sia come tipologia fisica che come posizioni politiche. Bene, ieri ha vinto il seggio senatoriale del New Jersey, la democrazia americana va avanti. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica, scrivetemi su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno, beh alla fine l'accordo c'è stato, l'America resta un grande paese, oggi in nome di questa unità ritrovata vi propongo una grande canzone popolare scritta da Pete Seeger, pensate nel 1949, un classico conosciuto da tutti gli americani di destra, di sinistra, persino dai tipartisti, If I Had a Hammer. Se avessi un martello, caccerei le paure, dice Seeger. Se avessi una canzone, se avessi un campanello, una canzone ispirata, la versione è live. Tutti cantano insieme, forse la qualità non è delle migliori, ma è un simbolo dell'unità. Il finale, il martello è della giustizia, il campanello delle libertà, la canzone dell'amore dei miei fratelli e le mie sorelle in ogni angolo della nostra terra. Anche questa è poesia americana. Pete Seeger, If I Had a Hammer. If I had a bell, if I had a bell, ring it in the morning, I'd ring it in the evening. Oh, I'd ring out danger, danger, ring out warning, ring out love, ring out war. The three brothers and sisters. Da Washington al seguito del presidente Rigoletta è tutto. Simone, ti restituisco la linea. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! Grazie Mario Platero anche per oggi. Gli altri ringraziamenti: Laura Faggini in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Un grazie a tutti voi per l'ascolto. Un ringraziamento naturalmente anche a tutta la redazione di Radio 24. Noi ci risentiamo tra un attimo con il giornale radio, con Effetto Giorno invece domani alle 13.